Sesto canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, sesto canto. Al tornar della mente, che si schiuse dinanzi alla pietà dei due cognati, che di tristizia tutto mi confuse, novi tormenti e novi tormentati mi veggio intorno, come ch'io mi muova e ch'io mi volga e come che io guati. Io sono al terzo cerchio della piova eterna, maladetta, fredda e greve, regola e qualità mai non le nova. Grandine grossa, acqua tinta e neve, per l'aere tenebroso si riversa, pute la terra che questo riceve. Cerbero, fiera crudele e diversa, con tre gole caninamente latra sovra la gente che quivi è sommersa. Gli occhi a vermigli, la barba unta e atra, e il ventre largo, e unghiate le mani, graffia gli spirti e di scoia e di squatra. Urlar li fa la pioggia come cani, e l'un de lati fanno all'altro schermo. Volgosi spesso i miseri profani. Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo, le bocche aperse e mostròcci le tanne, non avea membro che tenesse fermo. E il duca mio distese le sue spanne, prese la terra e con piene le pugna la gettò dentro alle bramose canne. Qual è quel cane ch'abbaiando agogna e si racqueta poi che il pasto morde, che solo a divorarlo intende e pugna? Cotai si fecer quelle facce lorde dello dimonio Cerbero, che introna l'anime sì ch'esser vorrebber sorde. Noi passavam su per l'ombre che aduna la greve pioggia e ponavam le piante sovra lor vanità che par persona. Elle giacean per terra tutte quante, fuor d'una ch'a sedersi levò ratto ch'ella ci vide passarsi davante. O tu che sei per questo inferno tratto, mi disse, riconoscimi se sai, tu fosti prima ch'io disfatto, fatto. E io a lui, l'angoscia che tu hai, forse ti tira fuor della mia mente, sì che non par chi ti vedessi mai. Ma dimmi chi tu sei, che in sì dolente loco s'è messo, e hai sì fatta pena, che s'altra è maggio, nulla è sì spiacente. Ed egli a me, la tua città, che è piena d'invidia sì che già trabocca il sacco, seco mi tenne in la vita serena. Voi cittadini mi chiamaste ciacco, per la dannosa colpa della gola, come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. E io, anima trista, non sono sola, che tutte queste a simil pena stanno per simil colpa, e più non fe parola. Io li rispuosi, ciacco, il tuo affanno mi pesa, sì ch'a lagrimarmi invita. Ma dimmi se tu sai, a che verranno li cittadin della città partita, s'alcun v'è giusto, e dimmi la cagione, perché l'ha tanta discordia assalita. E quelli a me, dopo lunga tencione, verranno al sangue, e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso convien che questa caggia infra tre soli, e che l'altra sormonti con la forza di tal che testè piaggia. Alte terrà lungo tempo le fronti, tenendo l'altra sotto gravi pesi, come che di ciò pianga o che naonti. Giusti son due e non vi sono intesi. Superbia, invidia e avarizia sono le tre favelle c'hanno i cuori accesi. Qui puose fine al lagrimabil suono, e io a lui, ancor vo che mi insegni, e che di più parlar mi facci dono. Farinata e il tegghiaio, che fuor sì degni, Jacopo Rusticucci, Arrigo e il Mosca, e gli altri, ch'a ben far puoser l'ingegni, dimmi ove sono,